semplice. Tu volevi una storia semplice, fatta di poesie e mai lacrime, la storia che non c'è. Ma perché hai deciso di buttare al vento un amore che oramai è tormento da quando non ci sei? Ti vorrei raccontare una storia infinita, ma che senso ha se ora siamo distanti? Sei scettata e pensa a me. Amore, amore, amore. O tempo si è fermato senza te. Ora so che è difficile dimenticare. Vorrei perdermi in questo mare e non trovarmi più senza te. È impossibile ricominciare, ma che senso ha lasciarsi andare come vorresti tu? Ti verrei a cercare, ma chi troverei? Stesso viso ma non è più lei. Amore, amore, amore. Chissà se stai scettando e pensa a me. Amore, amore, amore. O tempo si è fermato senza te. Porta via dal mio cuore la malinconia, io non voglio soffrire più per colpa tua, ma niente la voglia che ho di te.